In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, è altissimo questo volume stamattina, vediamo. Sì, così va bene. Allora, buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, questa è Slalom, trasmissione che vi terrà compagnia dalle 11 alle 13 in diretta su CRM Happy Radio. Salutiamo gli ospiti che oggi avremo in diretta all'interno di Slalom, sono belli, belli rossi, avete preso un bel po' di sole, sicuramente l'ho visto che in questi giorni siete stati a mare, le fotografie pubblicate, tutto, del resto è giusto che arrivando la bella stagione uno decide di andare a mare e comunque cambiare quella che è la colorazione classica e tipica dell'inverno, che è quella un po' più bianca. Allora, 0921 92 32 92 335 56 37 251 sono i nostri numeri telefonici che vi permetteranno di chiamarci per fare le vostre richieste. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Filippo e San Giacomo, siamo al 123esimo giorno all'inizio dell'anno e la Luna è all'ultimo quarto, quindi se dovete cominciare a preparare per piantare qualcosa, sappiate, come ci hanno insegnato i vecchi, che si comincia a piantare quando la Luna è piena, perché e così le cose vengono più buone, speriamo bene. Cominciamo subito con la musica, avete avuto l'opportunità di ascoltare tanta musica di qualche anno fa, questa invece è attualissima e Pink ai vertici delle classifiche internazionali. Right from the start you were a thief, you stole my heart and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just a little bit's enough. Just a second. Allora, ben arrivata la nostra cara Katie. Buongiorno. Che ci farà compagnia fino alle ore 13 più o meno. Parlerà comunque dell'esperienza dell'altro giorno tenutasi qui a Cefalù in occasione della vigilia del 1° maggio, quindi cinque artisti. Quanto siete stati a presentare le canzoni in piazza? 2 gruppi musicali e 4 artisti. Perfetto, quindi parleremo di questa esperienza e vedremo un pochettino com'è andata. In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. And we're moving slow. Our hearts beat so fast. I've been dreaming about you, about us. See the pain in your eyes. I've been feeling for you, my love. And our bodies are tied. Our shadows will dance. I've been aching for you. Slalom Flashback. Everybody needs a little time away. From each other, even lovers need a holiday far away from each other. Oh no, it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to

al terzo posto delle classifiche questa canzone di Calvin Harris, Drinking from the Bottle. Bevendo da una bottiglia dovrebbe essere la traduzione, credo, eh? Che lei che dice? Ok, grazie. Bontà tua. Allora, continuiamo e parliamo comunque, come già anticipato prima, con la nostra Katie dell'esperienza di della vigilia del primo maggio, quindi martedì sera c'è stata la Villa Comunale questo primo appuntamento che credo che apra un po' le varie manifestazioni che si terranno durante il percorso estivo di Cefalù. Sì, è stata appunto una bella occasione, molti gruppi appunto cefaludesi hanno partecipato a questo evento musicale ed erano tantissimi alla villa e molta gente infatti diceva che bisognerebbe farle più spesso certe manifestazioni proprio per coinvolgere non solo la gente ma anche i giovani. E infatti era un martedì in cui la gente molto spesso non esce perché magari ha finito di lavorare ed è stanca, però con questa occasione la villa era proprio stracolma di persone. Bene, questa è una cosa positivissima. Sì. Per quanto riguarda gli artisti, come eravate messi? Cioè nel senso che comunque Cefalù offre sempre tanti spunti musicali, ci sono tanti giovani che fanno musica, c'è tanta gente proprio da piccolino, come dicevo prima, a microfoni spenti. L'altro giorno con l'occasione della presentazione di alcune poesie c'era un gruppo di scolaresche che sapeva ben suonare, avevano intonato proprio come dissi prima quella canzone dei Queen, Another One by the Dust. Quindi comunque di materia prima ce n'è, cioè gente che sa cantare e che sa suonare. Ma quella sera come eravate messi? Eravamo dei gruppi e delle persone singole appunto come me che magari sono anche più profane in questo senso. E tutti comunque con dei generi completamente diversi, quindi era proprio bello questo, vedere che questo sentire mix. Sì, questo mix di persone appunto che cantavano qualcosa di diverso. I gruppi musicali hanno coinvolto sicuramente maggiormente le persone. Beh, certo. Facendo musica dal vivo, sentendo appunto suonare dal vivo, la gente si emoziona un po' di più, viene un po' più certo. Sì. Magari l'esibizione singola è sempre molto diversa rispetto al sei più attenta a capire, vero. Ok, continuiamo con la musica, non prima di avervi ricordato i nostri numeri telefonici, 335 56 37 251, 0921 92 32 92. Hit me up when you pass through. I give you something. big enough to tear your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not down with I. Pull my parts out, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm dead watching and waiting for you to salute and chew this pimp. Not many women can refute this pimp. And I'm a nice guy, but don't get it because you been pimping. Shake it up. Sound tipicamente estivo questo, eh? Sì, che dici? Sì. Tu che di musica te ne intendi un pochettino di più di me, visto anche le sonorità e il modo di cantare, ma il tuo dipetto com'è? Effettivamente è difficile da raggiungere? Guarda, oppure... ogni volta ti viene un po' d'animo perché hai paura di sbagliare, qualsiasi nota tu prendi è sempre un'incognita. Ma... però è bello sapere cantare seguendo comunque le tonalità. Sì. Poc'anzi parlavamo anche con l'altro ospite che in un angolino dello studio si parlava del fatto che molta gente nel periodo estivo, riunendosi e così via, fa il classico karaoke. Io ho detto che io vagabondo è la canzone, ma tu che canzoni canti tu solitamente? Niente, non vuole parlare, niente, nessuna. Niente. Ma dai. Beh, si rifiuta. Ma comunque è semplice, cioè nel senso che comunque è piacevole far in modo che la gente venga coinvolta con queste canzoni da karaoke. Poi più semplici sono, più bella è la serata, perché la gente diventa quasi dei veri e propri cantanti. tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. You know it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, I wonder how we'd make it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the edge. Remember, it was me and you, 'cause we are gonna be forever. It's time you started doing what we always wanted. One day we're gonna get so high. 'Cause even the impossible is easy when we got each other. One day we're gonna get. We made it through, and at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. Remember, it was me and you, 'cause we are gonna be forever. Ben ritornati qui con noi. Oggi leggevo delle notizie curiose su internet. Quella che mi ha coinvolto sicuramente di più è quella dopo 14 stagioni e 356 episodi viene trasmessa negli Stati Uniti l'ultima puntata della serie televisiva Dallas. La notte porta via il dolore e accompagna questa musica. Mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare. Spengo d'una

Dentro la macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori. Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona, musica buona, BPM 130. Respira, respiro, ti porto via con me. In questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole in questo spazio elettronico. Posso toccare il cielo, ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me, ribalteremo il mondo. Una cascata di bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita. Giovanotti con Ti porto via con me. Sono trascorsi tantissimi anni quando è nato Microsoft, cioè è nato, l'altro giorno ad esempio c'è stato il 20° anno dell'inizio del WWW, del World Wide Web. È una cosa curiosa che oggi si festeggia, che cosa, Katie? Proprio il 3 maggio del 1985 la società produttrice di software Microsoft lancia il proprio programma di foglio di calcolo per PC commercializzato con il nome di Excel. Come ti trovi con l'Excel? Bene, bene, anche se io di computer non sono proprio, non sono bravissima. Comunque dovrebbe essere al passo coi tuoi tempi, perché comunque avendo l'età giusta sei cresciuta comunque con i computer. Come se non fossi cresciuta in questo periodo. No. Io il primo computer che ho avuto, ma credo che molti dei nostri radioascoltatori, è stato il Commodore famoso 64, poi c'è stato il 128, una cosa del genere, e poi c'è stata l'evoluzione. Consigli commerciali, poi rientreremo in studio con tanta buona musica e soprattutto con un flashback, tanto per portarci indietro con il tempo musicalmente parlando. Slalom Flashback. I'm satisfied. one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Siamo qua, non ci siamo allontanati del tutto e non abbiamo proprio lasciato il buco perché vogliamo dare questa notizia che la Katie l'ha già preparata. Sì, nel 3 maggio sempre del 1758 muore all'età di 83 anni Papa Benedetto XIV. Prospero Lorenzo Lambertini era stato eletto nel 1740 dopo 254 fumate nere. Un bello smoke, sì, comunque, nella città di Roma, eh? Non era molto. Meno male che non c'erano macchine in quel periodo, comunque. Allora, vogliamo ricordare, certo. È andata via già la prima ora della nostra trasmissione, ricordiamo comunque. Ricordo sempre che potete inviarci un messaggio direttamente al nostro sito www.cmrmfradio.it o inviateci un sms al 335-5637-251. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. Slalom. Flashback. Flashback.

Allora, siamo quasi arrivati alle 12.21, siamo negli studi di CRM Radio, la radio che, come vi ho detto anche prima, potete ascoltare qualsiasi parte del mondo, perché abbiamo questo sito, sì, che grazie a WWW, che oramai ha festeggiato 20 anni l'altro giorno, World Wide Web, sì, ci permette di essere collegati a qualsiasi parte del mondo. Ti vorrei che amici miei che conosco e che, con il quale ancora tuttora mi scrivo, 20 anni fa l'unica possibilità di comunicare con loro che vivono in America erano i telefoni, e questo è veramente un botto. Adesso tramite internet puoi parlarci quasi tutta la giornata, non avere difficoltà di parlare con loro. Ancora musica su CRM in compagnia di Francesco Puglisi e di Chettila Martina. Show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, la cosa di essere qua vicino ci dà l'opportunità di parlare, però non ci prepariamo quello che dobbiamo dire in secondo momento. Si può mettere gli occhi, la cuffia, se no non mi senti, o se mi senti in parte. Allora, comunque, vabbè, dovevamo dire questa notizia strana che arriva praticamente dalla Germania, dove l'iPad, vabbè, comunque avremo modo di rilasciare questa, diciamo, di parlare di questa intervista più avanti. Del resto c'è Fabi Silva che è in calza per cantare, lo sentiamo, dai. Che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso che ho scritto. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente, gente, lo stadio è pieno, pieno. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente c'è, quanta gente c'è, come me, come me, come me. Tu mi credevi un coglione che perdeva tempo col rap, col rap, col rap, col rap, col rap, col rap, col rap, la base col rap, la base col rap, la base corre, la base corre, la base col rap, la base col rap, la base corre, la base col rap, ring ring, come a lotta libera nel ring ring, oggi ho casa libera, ring ring, come a lotta libera nel ring ring, dai la scossa libera, rimo da me mod MC da Merino. Voglio solo dame in camerino. Mi domandano come rimi. Roba rock and roll camerini. Sono hip hop robot col botto. Ho lo sprint al top complotto. Sono sul dub sin compot. Tipo cabrio ti scappotto. Come un plotter. Stampo tu salti in aria come il pirata con la botte. Non è lotta libera. Non guadagni soldi se ti arrivano le botte. Di che scrivi? Mando giù sempre più concetti tipo digestivi. Come quando allunghi le mani. Con i soldi tu non ci arrivi. Tu che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso, l'ho scritto anche per te. Tu che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso che ho scritto. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente, gente. Lo stadio è pieno, pieno. Non vedi quanta gente c'è, quanta gente c'è, quanta gente c'è. Come te, come te, come te. Che ti credevi un coglione che perdeva tempo con rock, con rock, con rock, con rock, con rock, con rock, con rock, la base con rock, la base con rock, sulla base con rock, sulla base con rock, la base con rock, la base con rock, sulla base con rock, la base con rock, ring ring, come a lotta libera nel ring ring, oggi ho casa libera, ring ring, come a lotta libera nel ring ring. Dai la scossa libera. Tu che pensavi lo stress mi avesse ucciso, ora senti questo inciso, l'ho scritto. Allora, ti è mai capitato di non trovare le cose e innervosirti, avere un pochettino di ansia nel fatto che non li trovi le cose? E pensi che cosa? Che c'è stato qualcuno che ci ha messo mano. Quello sempre, la mia mamma. Io nel mio disordine trovo tutto, nell'ordine di mia mamma non trovo nulla. Ma questa notizia comunque dà dell'inverosimile. Del resto io sono un sostenitore che da qualsiasi parte del mondo succedono queste cose. Vengono dalla Germania o dalla Germania questa notizia, vero Katie? Sì, infatti il fidanzato si arrabbia con la fidanzata perché non trova più il suo iPod e decide di sparare addosso qualsiasi cosa trova davanti a sé. L'iPod non è stato più ritrovato e lei è scappata terrorizzata. Era il minimo che potesse fare. Sì, infatti. Ho fatto errori che ripensandoci non farei, ma questo mondo dimmelo tu chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Sì, io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Io poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Vorrei tornare indietro amore, aspetta, lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa, amore, io per te farei di tutto. Ah! Slalom. Flashback. Una bella notizia comunque questa della birra, sì. Che dici, Katie? Sì, infatti in America la Budweiser ha introdotto una nuova generazione di lattine che ha il design un po' strano, un po' curioso, perché ha la forma appunto di una farfalla che riprende il logo della lattina stessa, solo che richiede sicuramente più alluminio ricostruirla e poi la birra è sicuramente inferiore rispetto a quanto ne va di solito. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sé. Niente se le parole tue mi hanno

12.45 in diretta su CRM Happy Radio, e questa simpatica notizia che questa volta arriva dalla Gran Bretagna, vero che sì, infatti Twitter ha presentato un corso orologio prodotto in edizione limitata. E la realizzazione appunto è avvenuta in collaborazione con lo studio appunto della ditta, che si era fatto una certa fama per aver realizzato una mini stampante tascabile per smartphone. Infatti l'orologio avverte ai clienti e agli operatori Twitter quando arriva la notizia. Rewind it back, the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shot me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love. Allora, siamo arrivati al termine della trasmissione. Purtroppo sì. Purtroppo sì, dai, poi l'appuntamento è a lunedì prossimo, okay. Stessa radio, stessa frequenza, stesso orario, quindi dalle 11 alle 13 in diretta, sempre su CRM. Grazie della compagnia. Grazie a te, grazie a te di tutto, della pazienza. No, assolutamente. Ringraziamo comunque i nostri radioascoltatori che ci hanno chiamato, ci hanno mandato messaggi, sì, ma soprattutto hanno che ci fatto hanno fatto anche ascoltare bella musica. Ecco, soprattutto perché sì, tutte queste canzoni moderne, io fra altre cose prediligo per alcuni aspetti le canzoni di qualche periodo fa, anche perché comunque mi riallacciano in qualche motivo particolare, però queste attuali tutto sono avanza, quelle. La vita quindi anche quella. Ci portiamo sempre avanti con la musica, come del resto questa che già sentiamo. Allora, buon fine settimana a te, anche a te, buon fine anche settimana a a tutti i radioascoltatori. L'appuntamento è quindi per lunedì ne abbiamo sei? Sì, lunedì sei. Lunedì sei. Buona vita. Buona anche vita a te. Dai. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. Piggy bank, but now papaya. Bigger, better, stronger, power. Progress, y'all. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be the number one. Yes, I'll be the number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay on fire, tire. Keep burning like that fire, fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down the door again.